Buonasera, vi do il benvenuto per il presso della Biblioteca Claudia Augusta. Do il benvenuto al nostro ospite, Leonardo Colletti, che questa sera presenterà il suo libro, Onde di Materia. Ma prima di lasciargli la parola, vi anticipo quelli che saranno i nostri appuntamenti prossimi. Domani vi sarà il Giorgio Dobrilla con il suo ultimo libro, Saggezza in caduta libera. E poi questa settimana avremo l'Istituto Vivaldi che festeggerà con noi il premio Claudia Augusta giovedì, venerdì e poi lunedì ci sarà la grande festa, diciamo, con i premiati, cioè coloro che hanno vinto quest'anno il premio Claudia Augusta. Infine, mercoledì prossimo avremo l'ultimo appuntamento dell'anno, che sarà il gruppo di lettura dedicato, chiamato La Cosmoteca, che leggerà ancora il libro di Marco Bersanelli, Il grande spettacolo del cielo. Ma io adesso vi auguro una buona serata e lascio la parola al nostro ospite, Leonardo Colletti. Buona serata. Grazie. Sì. Grazie per essere venuti. Ho visto che l'orario che ha fissato la biblioteca è dalle 17.30 alle 19.30. Cercherò di finire per le 20, diciamo, no, scherzo. No, massimo un'oretta, dai, che mi pare già tanto per un argomento che sicuramente non è sulle prime pagine dei giornali, anche se quest'anno è l'anno internazionale della scienza e tecnologia quantistica. Se ne è parlato poco, secondo me. Certo, non è che leggo tutti i giornali tutti i giorni, però così la mia sensazione è che se ne sia parlato poco. Però l'ONU ha giustamente deciso di dedicare quest'anno a questo anniversario perché la meccanica quantistica è una teoria che ha portato frutti a 360 gradi. Ci sono delle ricadute tecnologiche che hanno migliorato il nostro benessere o hanno proprio rivoluzionato alcuni aspetti del nostro modo di vivere. Ci sono poi aspetti più scientifici, proprio capire come è fatta la natura nel suo intimo a livello microscopico. Diciamo subito, la meccanica quantistica riguarda la descrizione della natura alle basse scale dimensionali, quindi siamo a livello delle molecole, dell'atomo, quindi dei milionesimi di metro e al di sotto ancora. E poi c'è una parte filosofica, perché per capire la natura a queste scale dimensionali si sono messe in discussione cose del nostro modo di approcciarci alla realtà che, sulle quali neanche ci eravamo mai permessi di discutere, delle quali non eravamo neanche consapevoli, e poi vi farò alcuni esempi, tanto sono connaturate al nostro modo di pensare. E poi ci sono anche dei risvolti umanistici. Ecco, in occasione di questo centenario sono usciti tanti bellissimi lavori di divulgazione scientifica, lì ce n'è una parte, una bellissima parte, di anche autori prestigiosi. Io ho cercato, quando ho iniziato a scrivere questo libro poco più di un anno fa, ho cercato di, ovviamente come tutti gli autori, ho detto non posso scrivere cose che hanno già scritto gli altri, ho cercato di mettere in evidenza un aspetto che secondo me è stato molto poco messo in evidenza in tante altre ricostruzioni. Un aspetto legato a un personaggio. Quella della meccanica quantistica non è una scoperta come quella della relatività che si deve a un nome solo, no? Einstein. La meccanica quantistica è un lavoro di cooperazione tra scienziati di nazioni diverse, tra l'altro anche in un periodo in cui tra queste nazioni non correva buon sangue, 100 anni fa. Insomma, siamo tra le due guerre mondiali e qui già c'è una piccola lezione, no? La meccanica quantistica per tutti potrebbe portarci questa lezione, farci vedere come gli scienziati ci diano un po' l'esempio di essere capaci di collaborare al di là dei confini nazionali. In appendice ho messo anche una lettera di Einstein, tedesco, diciamo, anche se lui poi ha rinunciato alla cittadinanza tedesca, che scrive ai colleghi francesi invitandoli ad organizzare una conferenza comune in un periodo in cui c'era molta rivalità o concorrenza, a dire poco, insomma, tra Francia e Germania, no? Ecco, quindi una teoria che ci permette di essere affrontata da diversi punti di vista. Io nel libro ho cercato di mettere in evidenza da una parte il contributo di un fisico in particolare e perché il suo, perché secondo me è quello che ha, ha portato l'ipotesi che ha costituito la svolta fondamentale nella formulazione della teoria, ed è l'ipotesi che dà il nome al libro, l'onda di materia. Cercherò di spiegarvi cos'è questa onda di materia. Però prima vorrei mettere così, diciamo subito l'aspetto tecnologico, così l'abbiamo detto e poi andiamo avanti. E, iniziamo con un quiz. Allora, qua ci sono due persone che di nome fanno John e tutte e due hanno diciamo vissuto nel Novecento. Allora, alzi la mano chi riconosce questo John qui. John Lennon, e alzi la mano chi riconosce questo John qui. Nessuno. Allora, John Lennon, è inutile che vi dica chi è, lo conoscete tutti, però è una delle icone del Novecento, e l'altro, scusate, l'altro invece è John Bardeen, che è uno delle tre, dei tre fisici che ha vinto il premio Nobel nel 1956 per l'invenzione del transistor. Il transistor è quel dispositivo elettronico che ha consentito lo sviluppo, la nascita e lo sviluppo dell'elettronica. No? Oggi nei nostri cellulari ci sono milioni di transistor. Sono stati, il transistor di John Bardeen era qualcosa di visibile ad occhio nudo, diciamo, dell'ordine grandezza, dell'ordine di qualche centimetro. Quella era l'idea base, no? Da quel momento in poi, sfruttando le caratteristiche dei semiconduttori, diciamo che erano noti fino a inizio Novecento, i conduttori e gli isolanti, quelli che trasportano la corrente elettrica e quelli che invece non la trasportano, no? Nasce la fisica dei semiconduttori, e i semiconduttori li si capisce solo se si capiscono alcune proprietà degli elettroni che sono descritte dalla meccanica quantistica. Quindi senza meccanica quantistica, Bardeen negli anni 40 del Novecento e la sua equipe non avrebbero mai potuto costruire un transistor. Senza transistor non ci sarebbero i computer, non ci sarebbero i cellulari, non ci sarebbero tantissimi dispositivi medici che ci hanno cambiato la vita. John Bardeen poi addirittura qualche anno dopo fece un'altra scoperta fondamentale che invece tecnologicamente ancora non è del tutto sfruttata, che sono i superconduttori. Piccola storia su Bardeen: vi ho detto, riceve il premio Nobel, insieme ai due colleghi si reca a Stoccolma a prendere il premio, e nella festa, nel ricevimento che segue appunto la premiazione, ha modo di colloquiare con il re di Svezia, e nel colloquio emerge che Bardeen ha dei figli, no? E il re dice: ma voglio vedere questi bambini, dove sono? Li ho lasciati a casa perché dovevano andare a scuola, non potevano perdere scuola per venire alla cerimonia a Stoccolma, no? Sarebbe stata, non so, una settimana di scuola persa. Allora il re, insomma, si disvezza un po' così, dice: ma come, il papà riceve il premio Nobel e i bambini, i figli non vengono? Allora Bardeen dice: beh, facciamo così, la prossima volta li porterò. E in effetti, 16 anni dopo, Bardeen riceve un secondo premio Nobel per la fisica, è l'unico scienziato che ha preso due premi Nobel per la fisica, quindi se vogliamo fare questa classifica assurda, più di Einstein, diciamo, no? Due premi Nobel per la fisica, il secondo per la superconduttività, quindi il primo per i semiconduttori, il secondo per i superconduttori. E la seconda volta appunto si porta i figli. E allora diciamo appunto, ecco, l'inventore del transistor. Le tecnologie quantistiche ed economia globale, qua diviso in due periodi, diciamo la prima parte riguarda la cosiddetta microelettronica, quindi l'uso dei transistor. Sapete che forse avete sentito parlare del chip, no? Noi apriamo il nostro cellulare, dentro ci sono una dozzina di chip, ogni chip predisposto a seguire una qualche funzione del cellulare, e in un chip ci sono, vi ho detto, decine di milioni di transistor, no? Quindi sono scale ultramicroscopiche, dimensionali, e su quelle scale la materia ha comportamenti diversi rispetto a quelli che ha nella scala della vita quotidiana, no? Ecco, una stima è che circa il 30% del PIL degli Stati Uniti e nazioni analogamente tecnologicamente avanzate dipende dalla meccanica quantistica, da tecnologie rese possibili dalla meccanica quantistica. È difficile fare una stima perché il turismo non dipende dalla meccanica quantistica, però se oggi dobbiamo prendere un aereo o prenotare un albergo, cosa facciamo? Ci mettiamo al computer. E il computer c'è perché c'è la meccanica quantistica. Quindi c'è tutto un indotto che è difficile da calcolare, che oggi appunto dipende dall'elettronica, che dipende dalla meccanica quantistica. E poi ci sono le nuove frontiere, ci sono tanti fenomeni quantistici che ancora tecnologicamente non sono sfruttati, no? E quello è, vedete lì c'è questa stima, no? Di un centinaio di miliardi come mercato globale, stimato il prodotto diciamo economico, no? Il giro d'affari legato alle nuove frontiere, no? E qua si dice, vedete, entro il 2040 quasi 1.000 miliardi, quindi insomma sta al centro della nostra economia la meccanica quantistica, questa teoria dai risvolti filosofici assurdi, è proprio una parola che dico a ragion veduta. Allora, adesso entriamo un po' nella fisica invece. Allora, quella che abbiamo studiato a scuola, che credo tutti abbiano studiato a scuola, insomma, salvo che qualcuno abbia avuto un professore un po', insomma, un po' troppo entusiasta rispetto alle mire del ministero, cioè quindi capace anche di parlare delle cose più recenti, che nei programmi scolastici sono quelle che risalgono a 100 anni fa. No? Ecco, fino ai primi del Novecento la fisica era fondata su alcuni principi di base che ho rappresentato con delle colonne, no? E li ho chiamati localizzazione, oggettività e causalità. E adesso vi spiego cosa intendo con localizzazione. Mi pare che ho una slide così. No, questa è dopo. Allora, la localizzazione è questa. Questo è come inizio il libro, no? Io perdo un mazzo di chiavi, no? E lo cerco. E lo cerco perché? Perché so che da qualche parte deve essere. Cioè una caratteristica che hanno tutte le cose in natura è quella di avere in ogni istante una posizione. Voi pensate al vostro miglior amico, non sapete dov'è, ma sapete che da qualche parte deve essere. Da una parte, non può essere contemporaneamente al bar, al lavoro e a casa. È da qualche parte. In ogni istante ha una posizione ben precisa. E questo vale per le persone e per le cose. Questa è una delle basi proprio della visione classica della natura. Qualunque cosa, vivente, non vivente, ha una posizione ben precisa. Ogni atomo di quella cosa, ogni più piccola porzione che possiamo pensare, ha una posizione precisa istante per istante. Questa è la localizzazione. E non ci sembra possibile che possa essere diversamente da così, no? C'è l'oggettività, e cioè che se adesso io penso alla mia aula scolastica dove ho fatto lezione stamattina e ho scritto delle formule alla lavagna, adesso la scuola, la luce è spenta, è tutto al buio, silenzio assoluto, non c'è nessuno, e sulla lavagna ci sono quelle scritte lì, e ci sono, e io credo che ci siano, anche se non c'è nessuno che le sta guardando. No? Quindi il mondo esiste indipendentemente dall'osservatore, non solo esiste, ma è ben determinato. Cioè quelle scritte non è che sono lì, che fluttuano, cioè ci sono. Io con la mente riesco a immaginarmi la situazione, no? Di queste scritte al buio, con un po' di luce che filtra dalla strada, così, con questi banchi vuoti, e penso che sia proprio così. No? Mi rendo conto che è una alla fine è un pregiudizio, no? Un pregiudizio, non so, potrei dire ontologico, metafisico, no? Però sarei disposto a scommetterci tutto quello che ho su questo, no? E questa è l'oggettività, si dice anche il realismo, quindi finora parliamo di realismo locale, questa è la visione del mondo che abbiamo noi tutti e che in fisica era, diciamo, quella fino al 1900. E poi la causalità, che ogni cosa che succede ha delle cause ben precise, no? Nel libro faccio questo esempio, Planck, che dice che cosa vuol dire credere nel principio di causa ed effetto. Spieghiamolo così, io ho due coltivazioni dello stesso tipo, da una parte metto il concime, dall'altra no, e vedo che le due coltivazioni crescono in modo diverso. Quindi la causa di questa diversità della crescita è stato aver messo il concime, no? E se ci studio un po' riesco anche a capire come deve essere questo concime per aumentare l'effetto. No? Quindi ogni cosa ha una ragione d'essere. No? Ben determinata. Queste sono la base, no? Dopodiché il quadro si era sviluppato pensando a due tipi di enti nella fisica. Ci sono le particelle, grandi o piccole, no? E che hanno in ogni istante una posizione, poi ci sono le onde. Allora, un tipo di onda che abbiamo studiato a scuola è il suono. Però alla fine il suono è fatto di particelle. Perché se io adesso togliessi l'aria dalla stanza, non sentiremo più alcun suono, perché il suono è fatto dal movimento delle molecole dell'aria, no, che si spingono una con l'altra. E, beh, insomma, da qualche parte avevo scritto, non credo in questo libro, forse in un'altra parte, avevo scritto un po' come i bavaresi alla festa della birra, no? Cioè, iniziano, sono seduti al tavolo, così dopo qualche birra iniziano un po' a ballare, si prendono sotto braccio e uno spinge l'altro, no? Quindi, diciamo, stanno più o meno fermi nella stessa posizione, ma urtandosi trasmettono l'energia e il movimento, no? Quindi alla fine anche il suono è fatto di particelle, no? Lo trattiamo come suono perché è più facile statisticamente, però potremmo vederlo come proprio somma di tanti piccoli movimenti di particelle. E quindi sono particelle. E poi ci sono le vere onde, che sono quelle che invece non sono fatte di materia, come le onde elettromagnetiche, chiamiamole anche radiazioni. No, sono quelle, la luce visibile, no? L'infrarosso, quindi il calore che percepiamo come così da una sorgente di calore, dal fuoco, e l'ultravioletto, no? Il sole emette tutti questi tipi di radiazioni. E poi ci sono i raggi X, i raggi gamma, le microonde, quelle del forno microonde, anche dei nostri cellulari. Queste non hanno bisogno della materia, tant'è vero che noi sentiamo, vediamo la luce del sole, la luce delle stelle, e tra noi e le stelle non c'è materia. Quindi non hanno bisogno di un medium, di un mezzo di trasmissione come il suono, no? C'è la sorgente e c'è il ricevente, no? E in mezzo non c'è un medium. O almeno non c'è un medium materiale. Si pensava che ci fosse, lo chiamavano lettere, proprio perché ci viene del tutto innaturale pensare di poter agire su qualcosa senza che ci sia un contatto diretto o indiretto, no? Come se io volessi spostare questa brocca d'acqua, no? Allora la devo toccare, oppure ci metto qualcosa di mezzo, un medium, no? Io tocco la penna e la penna sposta la brocca d'acqua, no? Questo è quello che succede col suono, c'è la sorgente, la campana, in mezzo c'è l'aria, poi c'è il nostro orecchio, no? Quindi la campana muove le particelle d'aria lì vicino, quelle muovono quelle vicine a loro e quelle successive, con questa concatenazione di pezzi materiali si ha la cosiddetta trasmissione del suono, no? Quindi qua vediamo anche un principio che si chiama della località, cioè io agisco su qualcosa se sono locale a quella cosa, se sono lì vicino, non agisco a distanza, no? Galileo diceva questa cosa di pensare all'azione a distanza è qualcosa che non è scientifico, fa parte dell'occultismo, non so. L'astrologia, quando mi dice che Saturno ha un effetto su di me, ma non è l'effetto della gravità, è un qualche altro tipo di effetto, no? Viene tacciata appunto di parlare di cose non locali, no? E attraverso che cosa, attraverso quale medium Saturno può agire su di me, no? E lì era nata poi l'idea, appunto, l'etere, si dimostra che questa materia non c'è, che questo medium per le onde elettromagnetiche è il campo elettromagnetico. Quindi non è materia, ma è energia che oscilla, senza materia. E questo è bellissimo, viene poche volte messo in evidenza, perché la fisica per la prima volta parla di qualcosa che non è materia, ma che è fisica. Quindi a volte si dice la natura è materia. No, forse oggi dovremmo dire la natura è energia, e l'energia tante volte è materia, ma tante altre volte non lo è. È sotto una forma che noi chiamiamo, ad esempio, di campo elettromagnetico. Quindi la fisica ci parla anche di qualcosa che non è materia, ci dice che nel mondo naturale le cose sono fatte anche di non materia. No? E queste sono le vere e proprie onde, quindi oscillazioni del campo elettromagnetico. Queste rispettano comunque il principio di località e di causalità, perché anche l'oscillazione è punto per punto. No? Io mi immagino il mio cellulare che comunica con la cella con l'antenna. Da me all'antenna, l'onda che attraversa questo spazio ha in ogni istante e in ogni posizione un valore preciso del campo elettrico, del campo magnetico, che posso misurare. Quindi in ogni punto la grandezza fisica è ben determinata. Questa è l'idea, insomma. Quindi questa è la fisica classica, e a fine 800 un grande fisico dice: non c'è più altro da scoprire, sappiamo tutto, il compito della fisica è concluso, i grandi principi della natura li conosciamo, ci sono solo alcuni esperimenti che non tornano, ma presto, studiandoli meglio, riusciremo a descriverli secondo questo schema, onde e particelle che interagiscono tra di loro, con questi, sulla base di questi principi. Allora, sempre su onde e particelle, vi faccio vedere come li si possono distinguere dal punto di vista degli esperimenti. Ecco, qui c'è un tennista che lancia palline, quindi particelle, che hanno in ogni istante una posizione ben precisa, attraverso uno schermo in cui sono praticate due fenditure. No? Lui tira quelle che passano vanno a finire o qui o qui. Non c'è una via di mezzo, no? O passi e finisci in questa stretta striscia larga quanto la fenditura, in una o nell'altra, oppure non passi. Questo è quello che fanno le particelle. Ok? E invece le onde, come la luce, hanno un comportamento diverso. Se la fenditura è sufficientemente stretta, invece che trovare un'unica luce in corrispondenza della proiezione delle due fenditure, ad esempio una qui e una qui, questa luce la si trova sparpagliata. No? E questo è l'effetto di quella che si chiama l'interferenza. Cioè, quello che succede è che, questo è stato un esperimento che avevano fatto 100 anni prima, nel 1800, no? Aveva fatto un ingegnere, Fresnel, che era stato messo al confine da Napoleone in Normandia, e lì, non potendo più fare l'ingegnere, un ingegnere civile che si occupava di edifici, di ponti, eccetera, si era messo a studiare la luce, e si era accorto che la luce, che allora si pensava fatta di tante microscopiche particelle, questa era l'idea dovuta a Newton, in realtà, pensando alla luce come fatta di particelle, non si spiega questa cosa qui, perché dovrebbe comportarsi come le palline del tennista di prima, no? E quindi Fresnel è costretto a dire: no, la luce è fatta di onde. Va bene, questa cosa qui, ma anche matematicamente, se immaginate che la luce sia fatta di onde come quelle della superficie sull'acqua, no, quando arriva in corrispondenza di quelle due fenditure, un po' torna indietro e un po' passa, e al di là della fenditura, questo lo si vede anche a volte se andate al mare o sul lago, no? C'è un piccolo passaggio, al di là del passaggio si formano delle onde così semicircolari. Quindi là si formano due onde semicircolari in questo spazio qui, una di qua e una di qua, e poi queste si sovrappongono una all'altra. E dove si sovrappongono rinforzandosi si avrà la luce, dove invece una va su e l'altra va giù, si ha il buio, si cancellano uno con l'altra, no? E quindi la luce è fatta di onde. Questo nel 1800, quindi 100 anni prima. Questo l'abbiamo detto, queste sono le chiavi. Ecco, nel 1900 c'erano questi esperimenti che non tornavano e che erano un po' una sfida. E qua abbiamo già i primi tre personaggi che sono tra quelli più famosi, a cui sono dedicate tante biografie, anche quest'anno sulla meccanica quantistica. Uno è Max Planck, Albert Einstein e Niels Bohr. No, tedeschi i primi due, anche se poi Einstein insomma, rinuncia, anche un po' schifato alla cittadinanza tedesca. Adesso non mi ricordo bene come la questione se prende quella svizzera, insomma, è per parecchi anni forse in una condizione di apolide, poi va negli Stati Uniti, insomma. E lui invece Niels Bohr, danese. E fanno dei passi avanti notevoli e inaspettati, e tutti e tre facendo qualcosa di rivoluzionario. E sostanzialmente, adesso cercando un po' di tagliare, riescono a spiegare questi fenomeni. I primi due spiegano la radiazione emessa da un corpo. Quando scaldiamo un pezzo di ferro, ad esempio, a un certo punto non si scalda e basta, ma emette luce. Com'è la luce emessa da questo corpo? E l'altro è l'effetto fotoelettrico. Diciamolo così, proprio semplificando al massimo, quello che succede anche nei pannelli fotovoltaici. Arriva la luce e esce la corrente elettrica. Ecco, per spiegare, non a parole, ma in maniera proprio quantitativa, perché questa è la scienza, no? Questi due fenomeni, questi due scienziati fanno la stessa ipotesi, cioè che la radiazione che da 100 anni si era appena detto essere fatta di onde, no, torniamo indietro e la pensiamo fatta di corpuscoli, i cosiddetti quanti di luce o fotoni. Quindi c'è questa andata e ritorno, diciamo, dall'ipotesi corpuscolare della luce, no? Fino al 1800, autorità di Newton, la luce è fatta di corpuscoli. Dall'Ottocento si scopre che no, deve essere fatta di onde, e nel 1900 di nuovo si dice no, deve essere fatta di corpuscoli. È quello che ancora oggi è risolto, il cosiddetto dualismo della luce. In alcuni casi la luce ci conviene pensarla come onde, e in altri casi ci conviene pensarla come particelle, quindi discrete nello spazio invece che continue, no? C'è questo contrasto tra vedere le cose come discrete, staccate tra di loro nel vuoto, o qualcosa invece che riempie continuamente lo spazio. E Bohr invece è quello che si occupa di descrivere l'atomo, e anche lui introduce qui questa è un po' più difficile da spiegare, ma un altro tipo di discrezione, cioè di non continuità, quello dell'energia che possono avere gli elettroni negli atomi, no? E questo è l'inizio della rivoluzione quantistica. Siamo con Planck nel 1900 e lui è convinto che sì, la sua descrizione funziona, ma è una cosa pratica, che non ci sia una verità di fondo, no? Sia una cosa, conviene descriverla così, la luce, ma non ci credo. Anzi, Planck in quegli anni là non credeva neanche agli atomi, che era una cosa nuova, una cosa introdotta da pochissimo. E Einstein è il più disinvolto di tutti, no? Non si fa problemi a introdurre questa ipotesi di quanti di luce e guarda avanti più che guardare indietro. E Bohr poi ne parleremo dopo. Ecco, questo nasce nel 1900, vi ho detto quest'anno 2025, centenario, quindi stiamo parlando del 1925, qua ci vogliono ancora 25 anni. Beh, l'atomo è di Bohr, è del 1913, insomma, quindi primi anni del Novecento inizia la rivoluzione quantistica. Questo quanto è proprio questo corpuscolo di energia. L'energia della radiazione che invece che essere distribuita è concentrata in alcuni punti, no? E vediamo, adesso arriviamo appunto al 1924, 101 anni fa, nel novembre del 24, arriva questo signore sconosciuto, al di fuori dei circoli che contano, Louis de Broglie. E a volte lo sentite, vi può capitare di sentirlo pronunciare De Broglie, De Broglie, De Broglie. Insomma, forse la sua fama inferiore agli altri si deve anche a questo nome più così meno caratteristico. A volte il nome anche è importante. Paese che vai, De Broglie che trovi, cioè viene pronunciato in modo diverso proprio. I miei professori all'università lo chiamavano De Broglie, poi ho scoperto che sì, De Broglie. Però qualche francese dice De Broglie, quindi insomma, un po'. Non è un nome francese comunque, perché questo Broglie è una località del Piemonte, perché la famiglia è originaria del Piemonte nel 1600. Lui è uno storico di formazione, di ricca famiglia, nobile famiglia, con addirittura due titoli nobiliari, un titolo di duca francese e anche un altro titolo nobiliare invece del Sacro Romano Impero germanico. La sua è una famiglia, un dato che dice tutto, è la seconda biblioteca più grande privata della Francia, è quella in cui lui trascorre la sua infanzia. Insomma, lui vive in una casa con una cinquantina di addetti alla servitù, circondato dai libri, e il suo destino è quello, come tutti i suoi avi, di fare il diplomatico sostanzialmente, l'uomo politico, l'amministratore di alto livello. Studia storia e scienze politiche, si laurea, però ha un fratello più grande che è fisico. E questo fratello, conoscendone anche le capacità organizzative, eccetera, torna da un congresso in cui c'erano stati Einstein e tutti i nomi famosi e dà a lui il compito di mettere assieme le carte per fare appunto la pubblicazione con tutti i resoconti portati da questi. E per lui questa è proprio la sua conversione sulla strada di Damasco. No, lui proprio nel libro descrivo, ci sono pochissime, c'è una biografia e mezzo su di lui, mentre su Einstein se ne trovano decine, su di lui ce n'è una di un centinaio di pagine, scritta da un allievo e quindi forse non proprio obiettiva, no? E un'altra e mezza, perché l'altra in realtà c'è una piccola biografia e poi ci sono i suoi principali lavori. Vi anticipo che lui è stato un po' dimenticato. Adesso poi vi dirò, è stato molto noto, c'è su tutti i libri, la sua ipotesi è immancabile, ci deve essere perché è proprio centrale. Però rispetto agli altri nomi, alcuni li abbiamo detti, Planck, Einstein, Bohr, gli altri sono Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Pauli, De Broglie si trova su tutti i libri, ma è De Broglie questo sconosciuto. Insomma, si sa molto, si sa tutto della sua ipotesi, cioè che è molto semplice in realtà, però di lui si sa poco. Nel 24 lui mette assieme un po' di cose ed è colpito da una cosa. Ecco, lui è uno spirito più che di analisi, di sintesi, no? Lui è colpito da una cosa, cioè che sia le onde che le particelle hanno un comportamento simile da un punto di vista, e cioè che minimizzano la traiettoria che devono seguire per andare da un punto all'altro. Che tu sia onda o particella, se devi andare dal punto A al punto B, lo fai nel modo più conveniente possibile. E quindi questo per lui è stato un indizio nel pensare che onda e particella forse sono due aspetti di un'unica entità. E quindi è venuto fuori con un'ipotesi inaspettata, che nessuno si aspettava, ho detto sconosciuto, però il suo relatore alla tesi di laurea era, ho saltato un passaggio perché ho detto studiava storia, poi è stato coinvolto dal fratello, ha avuto questa conversione e si è messo a studiare fisica, quindi relativamente tardi, insomma, si è messo a studiare fisica a 25 anni, di mezzo c'è stata anche la Prima Guerra Mondiale, in cui lui ha lavorato con le prime radio e quindi questo ha contribuito a anche suscitare il suo interesse per la fisica. La sua ipotesi, ecco, questa non è una formula difficile, dai, questa qui. Allora, questa lambda uguale HP. Adesso, lambda è la lunghezza d'onda, no? Tutti sappiamo le onde del mare, la distanza tra due creste successive. Okay? E P è sostanzialmente una lettera che si usa per dire il movimento. okay? La velocità. Okay? Potevo scrivere V, non sarebbe stato precisissimo, potevo scrivere V. Quindi V, la velocità è la massa anche, no? Quindi è proprio una caratteristica di una particella. Quindi qua, attraverso questo uguale, stiamo collegando due nature diverse. Qua c'è l'onda e qua c'è la particella. E c'è in mezzo un uguale. Cioè questo è un modo di collegare a qualunque particella un'onda. Però notate bene, qua sopra c'è un H. Questa H è un valore piccolissimo. Per tutte le cose, per tutti gli esperimenti che potremmo fare alle grandezze scale a cui siamo abituati, H vale zero. Quindi se voi cercate, io sono una particella con una certa massa, una certa velocità, e De Broglie dice che sono inseguito da un'onda, non sono solo una particella, ma sono un'onda. Però se voi la calcolate, praticamente quest'onda ha una lunghezza d'onda così piccola che è impossibile da misurare. Quindi è come dire che è zero. H è zero e quindi il risultato di questa divisione è zero. La mia lunghezza d'onda è zero, quest'onda non c'è. Però se voi prendete particelle piccoline, non prendete me, non prendete un tavolo o meglio un pallone che si muove o un'automobile, ma prendete un atomo, un elettrone, e questa cosa diventa piccolina, no? E quindi confrontabile con questa che non è più zero e quindi questo numero non è più zero. Quindi De Broglie quello che dice è là dove c'è una particella come l'elettrone che ruota attorno all'atomo, noi ci vediamo un'onda. Non c'è solo la particella, ma c'è un'onda. E lì inizia la discussione. C'è la particella e c'è anche l'onda? O la particella non c'è e in realtà è un'onda? Oppure l'onda c'è da un punto di vista matematico, ma in realtà c'è solo la particella? Insomma, queste che chiamiamo particelle, come gli elettroni, sono onde, sono particelle, sono tutte e due. No? E lì inizia la discussione. La cosa bella è che, come tutte le ipotesi valide in campo scientifico, permette di risolvere alcuni problemi. Uno, così abbastanza intuitivo, era quello Bohr si era accorto che gli elettroni che girano attorno al nucleo, nell'atomo, possono stare solo su alcune circonferenze, diciamo, su alcune orbite, non su altre. No? E adesso, facendo i conti, ci si rende conto che le orbite ammesse sono quelle proprio per cui l'onda dell'elettrone si chiude esattamente. Vedete, qua non si chiude esattamente, questa orbita risulta una che non è permessa all'elettrone, dove l'elettrone non lo troviamo. E quest'altra invece sì. No? Quindi, aspettiamo. Cosa stavo dicendo? Ah sì, che, ecco, l'altra cosa è che ovviamente, come tutte le ipotesi scientifiche, bisogna fare un esperimento. Non sono cose campate per aria. Comunque la fortuna, diciamo, di, ecco, un'altra lezione, un insegnamento prezioso che ci lascia De Broglie a tutti, non solo a chi si occupa tecnicamente di meccanica quantistica, che si può avere l'idea migliore del mondo, ma se non si trovano i canali giusti per diffonderla, l'idea rimane lì. Un po' come i vichinghi che scoprono l'America, però non se ne erano resi conto, non l'avevano detto alle persone giuste. Cioè, se uno va a studiare un po' la storia della scienza, si rende conto che non è importante tanto essere i primi a scoprire qualcosa, ma gli ultimi, nel senso quelli che da quel momento in poi tutta la comunità scientifica si accorge che sì, quella cosa è degna di essere presa in considerazione, si rende conto di quello che ha davanti. No? E lui ha la fortuna che il suo relatore, Langevin, è molto amico di Einstein. E Langevin stesso, di fronte a questa tesi di laurea di De Broglie, non sa cosa dire, non sa se sono delle cose proprio campate per aria, senza senso, le propone ad Einstein e Einstein risponde così: De Broglie ha sollevato un lembo del grande velo, poi dice a tutti quanti, leggete la tesi di De Broglie, anche se potrebbe sembrare folle, è assolutamente solida. E lui la passa al collega Schrödinger a Berlino e la reazione di Schrödinger è proprio rimasta agli atti, questa è una idiozia enorme. No? Einstein insiste, gli dice: ascolta, sembra una cosa così campata per aria, riflettici su. E Schrödinger si fida di Einstein, ci ragiona su e effettivamente poi arriva, saltiamo questa parte qua, arriva alla famosa equazione, vedete, pochi mesi dopo la fine, la tesi di De Broglie è fine 24 e Schrödinger la sua pubblicazione, se non sbaglio, sono del giugno 25, in cui lui usa quest'onda e come ogni cosa in fisica, ogni grandezza che varia nel tempo va descritta da un'equazione, quindi riesce a scrivere questa equazione. No? Tra l'altro persone molto diverse tra di loro, un po' nel libro lo descrivo, no? Schrödinger rispetto a persone molto diverse, ma altra cosa che impariamo tutti è, per quanto diverse possono essere come personalità, interessi, valori, modi di vivere, eccetera, quando si tratta di fare scienza, alla fine si tratta di fare calcoli, di fare esperimenti, e se una cosa ti piace o non ti piace non ha importanza, l'importante è che funzioni. E l'esperimento fondamentale è questo qui, che se è vero che le particelle sono onde, devono comportarsi come onde. E abbiamo detto prima, che cosa vuol dire essere un'onda? Vuol dire che se passi attraverso due fenditure, devi andare a finire non solo in due posti, ma in tanti posti. Quindi l'elettrone, quando passa di qua, effettivamente si comporta come un'onda. Ma non è tutto, perché la cosa diventa misteriosa. Perché se io metto qua un rivelatore di particelle, cioè qualcosa che misura il passaggio delle particelle, allora non funziona più come prima. Di colpo gli elettroni si comportano come particelle. Se invece il rivelatore lo spengo, l'elettrone si comporta come un'onda. Quindi l'elettrone, io posso anche far partire l'elettrone, farlo arrivare qui, e poi accendere questo, e di colpo dico l'elettrone che era partito come onda, perché stava per fare questa, per dar luogo a questa figura, diventa particella e non lo fa più, e fa questa figura qui. Quindi qua uno dice veramente, non si capisce, qua ecco dove l'oggettività del mondo entra in crisi, cioè dipende da come noi lo misuriamo. Infatti lì Bohr dice: dobbiamo dimenticarci l'idea degli oggetti indipendenti. Gli oggetti sono parte di un fenomeno e l'osservatore è parte del fenomeno, quindi non esiste la particella isolata. La particella diventa tale quando interagisce con l'ambiente in un certo modo. Se io interagisco con l'ambiente in un altro modo, il fenomeno acquista un'altra natura. Quindi esistono i fenomeni, no? Cioè le cose così come le osserviamo, e l'osservatore diventa parte o coautore della realtà. Una delle parole che la fisica in quegli anni promuove è quella di collasso, cioè la natura è come una specie di grande potenziale, una potenzialità aristotelica, potremmo dire, che di fronte all'intervento dell'osservatore collassa in una delle varie possibilità, no? Questa è un po' la lezione ontologica della meccanica quantistica, detto in breve. Questo è il più famoso, questa è una parte di una famosa figura, è il convegno di Bruxelles, la conferenza Solvay, che si tiene ancora oggi, ogni due anni, se non sbaglio, a Bruxelles. E questa del 1927 è considerata la più grande conferenza della fisica, forse scientifica, di sempre. E qui avete proprio i protagonisti di questa storia. La foto andava anche più in là, no? Qua c'era al centro, c'era Marie Curie, no? Unica donna, no? E tutti, diciamo, i fisici quantistici sono qui. C'è Einstein, no? Questo qua è Langevin, il relatore della tesi di laurea di De Broglie, che è qui. De Broglie un po' impacciato, lì è dove si scontra poi, si crea un vero e proprio scontro su come interpretare. Sono tutti d'accordo, l'equazione di Schrödinger, l'ipotesi di De Broglie, va tutto bene, però resta aperta l'interpretazione, cioè come dobbiamo pensare al mondo, no? A queste particelle che sono sia onde che particelle. E poi c'è, questo è Born, di cui poi vi parlerò forse tra un po', questo è Bohr, poi i giovani, i più giovani, Heisenberg, è Pauli, e questo qua è Schrödinger, e un altro giovanissimo è Dirac, un inglese. Questi sono, diciamo, le menti che hanno elaborato la meccanica quantistica, che nel 27 si scontrano, e lo scontro, diciamo, i due capi delle due fazioni sono Einstein e Bohr. E Bohr ha dalla sua tutti i più giovani, più disinvolti, meno legati alla fisica classica, e Einstein, diciamo, è quello che riassume la sua posizione con la famosa frase: io non credo nel Dio che gioca a dadi. Questo vuol dire: io credo che la natura in sé sia determinata, non dipende quell'elettrone da come io lo misuro. C'è qualcosa nella mia teoria, la mia teoria è incompleta. Se io dico che l'elettrone è sia onda che particella e poi quando misura, a seconda di come lo misura, è uno o l'altra e quindi dipende da me, vuol dire che manca qualcosa. In quegli anni l'esempio che facevano era la trasfusione del sangue. Avevano notato che facevano le trasfusioni, ma a volte andavano bene e a volte andavano male. E alcuni medici dicevano: dipende dalla persona, dalle sue condizioni di salute, da quanto è forte, no? Da quanto... Invece altri hanno detto: no, forse c'è qualcosa nel sangue che fa sì che ci sia o meno una reazione di rigetto, no? Forse c'è qualcosa che ancora non abbiamo scoperto. E poi hanno scoperto, no? Ci sono diversi gruppi sanguigni, gli antigeni, eccetera. E Einstein propendeva e propese per tutta la sua vita per un'interpretazione come questa. Cioè, se la meccanica quantistica ci parla di cose fluttuanti, indeterminate, non è la meccanica quantistica che è così, non è la natura che è così, no? Quindi è un problema di conoscenza, non è un problema di come è fatta la natura, è un limite nostro, non un limite della natura. Invece Bohr, molto più disinvolto, diceva: no, il nostro modo di pensare che abbiamo usato fino adesso, cioè, funziona alle nostre grandezze, alle nostre scale dimensionali, ma nel microscopico è proprio così, è tutto indeterminato. La natura è profondamente diversa, anche il principio di causa ed effetto funziona, ma in maniera statistica. Cioè, io faccio una cosa e a volte ottengo un risultato, a volte ne ottengo un altro, e il massimo che posso dire è la probabilità con cui ottengo diversi risultati. Invece Einstein dice: no, dobbiamo fare una teoria che mi predice con certezza: se faccio questa cosa succede quello, e se faccio quest'altra succede quest'altro, e non che c'è una probabilità. No? Quindi c'è questo problema di una probabilità vista come primaria da Bohr e dalla sua scuola, la cosiddetta scuola di Copenaghen, e una probabilità invece secondaria, secondo Einstein, cioè che è un limite di noi, di come ci approcciamo alla natura. E ancora oggi questa cosa è sostanzialmente irrisolta, anche se quello che era all'epoca un dibattito filosofico, con gli anni è diventato, diciamo, è stato supportato anche da evidenze sperimentali. Cioè, di questo nel libro non parlo, perché sì, sono cose abbastanza tecniche, ma alcuni scienziati, a partire dagli anni 80 in Francia, in Austria, anche a Innsbruck, sono riusciti a fare degli esperimenti dai cui risultati si poteva dire: sì, ha più ragione Bohr o ha più ragione Einstein, sì, la natura è veramente determinata, oppure no, non lo è. È una nostra, la meccanica quantistica è affetta da un limite, insomma. E questi esperimenti vanno sempre più nella direzione di dare ragione a Bohr e torto ad Einstein. Questo un po' proprio riassumendo al massimo questa situazione, però è ancora... De Broglie, qual è la sua posizione? Allora, lui, vedete, ve l'ho detto, un po' imbarazzato. Un altro limite interessante da raccontare anche ai ragazzi a scuola, no? Anche se non si parla di meccanica quantistica. Uno, l'ho detto prima, avete una bella idea, dovete trovare i canali giusti, no? Compito della società e anche della politica, se vogliamo, no? È fare in modo che questi canali ci siano, aiutare le persone che hanno le idee a svilupparle, a trovare i giusti veicoli, no? A De Broglie è andata bene, perché forse perché era un nobile, perché aveva il fratello che era un fisico molto in vista, tra l'altro fratello candidato negli anni 20 quasi annualmente al premio Nobel, arriva il fratellino più piccolo con la sua ipotesi, completamente sconosciuto, al primo tentativo prende subito il premio Nobel. No, questo, no, e lui, vi dicevo, appunto, ecco, un altro suo limite è che lui in questa discussione tra Einstein e Bohr è imbarazzato, è strano. Lui non conosce l'inglese, fa molta difficoltà. Lui la sua relazione la scrive in francese, gliela traducono, la legge, no? È uscito pochissime volte dalla Francia, è uscito pochissime volte da Parigi in vita sua, è andato a Stoccolma a prendere il premio, è andato a Bruxelles alla conferenza, ma poi ha passato i successivi 50 anni a vivere quasi in maniera monacale, completamente dedito all'insegnamento della meccanica quantistica. Lui si era piegato, lui era nella scuola di Einstein, lui credeva che la meccanica quantistica fosse solo un passaggio, bisognasse andare avanti e trovare una teoria di tipo classico, insomma, no? Cioè dove o è particella, o è onda, o è qualcos'altro, ma non è una cosa così fluttuante. Però si adegua a raccontare ai suoi allievi per un ventennio la fisica così come ormai c'era su tutti i libri. Lui si adegua, ma poi quando esce dall'aula torna a pensare a un'altra possibile interpretazione. E solo negli anni 50, quando ormai Einstein è nei suoi ultimi anni di vita, inizia pubblicamente ad esporsi, a dire io la penso come Einstein. No? Lì lui è già una figura un po' messa in disparte, c'è di mezzo una questione forse politica. Nel libro non ne parlo perché non sono riuscito a capire dai pochi scritti che ho cercato e che si trovano su di lui cosa fosse accaduto in realtà. Cioè succede che lui durante gli anni dell'occupazione tedesca di Parigi tanti suoi colleghi si scappano, si rifugiano in montagna, alcuni si aggregano ai partigiani francesi, lui invece rimane a Parigi e il suo nome si trova addirittura a capo di una conferenza organizzata proprio dai tedeschi, insomma, che lo portano avanti in questo ruolo un po' come una bandiera, no? E lui non dice né sì né no. Ecco, rimane un po' lì. Lui sostanzialmente, dopo la guerra, si difenderà, verrà processato e si difenderà dicendo io sono uno scienziato, ho sempre fatto lo scienziato, non mi sono mai occupato di politica. E forse con questo poteva anche cavarsela per l'opinione pubblica. È che succede che proprio negli anni della guerra viene a mancare il segretario generale dell'Académie des Sciences, che è considerato il punto più alto possibile in una carriera scientifica, il segretario generale dell'Accademia delle Scienze francesi. Cioè nel passato sono stati tutti i grandi nomi degli scienziati francesi hanno ricoperto questo ruolo. Succede che muore, bisogna farne uno nuovo e quello che doveva subentrare, un famoso matematico, è tra i partigiani, è a combattere la guerra partigiana. E allora De Broglie dice, beh, intanto lo faccio io. Finisce la guerra e questo signore matematico, Borel, celebre matematico, va da De Broglie e dice, beh, dammi l'incarico che mi spetta. No? Il fratello di De Broglie va da De Broglie e dice, lui, guarda, adesso dai l'incarico a quello a cui spetta. Tutti quanti iniziano a dire, dai l'incarico. Allora lui a quel punto, un po' permaloso, dice no, adesso io l'avrei fatto, ma adesso che me lo dite tutti non lo faccio. Insomma, c'è stata questa cosa, no? Si è un po' intestardito, un po' una reazione, così. E da quel momento, se ho ben capito, lui è rimasto segretario dell'Accademia delle Scienze a vita, però praticamente è stato escluso da ogni... Da ogni convegno scientifico, è stato completamente ignorato dalla Francia, è stato proprio messo da parte. Un po' come, forse in Italia, non so, Marconi un po', Marconi era stato un po' più fascista, un po' più convinto, insomma, no? Però, diciamo, di Marconi la mia impressione è che non se ne sia parlato per molti decenni, no? A causa di questa sua connivenza, diciamo. De Broglie è un po' più in disparte, però questa cosa, insomma, se ho ben capito, perché veramente è stato, non si trova più niente di lui per successi, cioè lui muore a quasi 100 anni, passa la vita, i suoi ultimi allievi, pochissimi allievi, lo descrivono con grandissimo rispetto, no? Come questo signore che spesso abita alla periferia di Parigi, si fa tutta la strada, 6-7 km a piedi per arrivare all'università, ritorno uguale e sempre sprofondato nei pensieri sulla meccanica quantistica. Insomma, cioè, riporto anche le parole della sorella che dice: mio fratello fino a 25 anni era un salottiere, un intrattenitore brillante, una specie di sapeva intrattenere proprio nei salotti le persone, no? Poi, come ha incontrato la meccanica quantistica, dice: io l'ho visto in poche settimane cambiare completamente carattere, diventare un monaco della scienza, sostanzialmente. No? Questo può... è una persona interessante, insomma, ecco così. Vediamo. Ecco, quindi quello che appare di fronte alla meccanica quantistica è che la localizzazione non c'è più. De Broglie elabora un esperimento, adesso forse è meglio che termino, ve lo dico, non ve lo dico perché se lo dico velocemente non funziona, però insomma alla localizzazione si sostituisce la sovrapposizione, cioè la particella è in tanti posti contemporaneamente, non è più in un posto solo, è appunto l'onda di materia, è in tanti posti, in potenza perlomeno, e se fate l'esperimento poi con una certa probabilità la trovate in un posto ben preciso, ma con una certa probabilità. E non c'è modo di avere un principio di causa ed effetto, diciamo, in un rapporto di 1-1, no? Quindi non c'è più cosa c'è scritto qua? La causalità, ma il probabilismo. Non c'è più l'oggettività, il mondo non è più di per sé determinato, ma sta in questa potenzialità che collassa in un atto, nella realtà, solo attraverso l'interazione con l'uomo. Ma hanno elaborato alcuni pensieri veramente interessanti. Ad esempio, quando io guardo una galassia a milioni di anni luce da qua, quella luce della galassia ha percorso milioni di anni luce. No? E poi io qua decido se guardare la luce come se fosse una particella o un'onda, e quindi decido se per quel milione di anni addietro quell'ente fisico era stato un'onda o una particella. Posso decidere addirittura non solo adesso, qui e ora, ma anche del passato di quell'ente fisico, che cosa è stato. Cioè è il presente che determina il passato. Questo è il solitario De Broglie nei suoi 50 anni nel dopoguerra. Questo vi dicevo, una cosa un po' lunga da raccontare. Ecco, ci lascia per tutti, sarò brevissimo, un vocabolario concettuale con cui possiamo anche scoprire o guardare in modo originale anche cose che non sono la fisica. Vi faccio solo un esempio, perché è un classico dei programmi italiani, Mastro Don Gesualdo, no? Di Verga. Mastro Don Gesualdo, cioè... Gesualdo, no, il muratore, mi pare muratore, no, siciliano, che col tanto lavoro si arricchisce e poi finalmente riesce a entrare nella nobiltà sposando una nobile decaduta, no, un matrimonio di interesse. È Mastro Don Gesualdo, cioè la sua identità, così come l'elettrone ha un'identità che dipende dal contorno. Se lo misuro come onda o come particella, Gesualdo diventa mastro quando è in mezzo ai nobili, che non lo vedono come uno di loro, lo vedono come quello che si è fatto da sé lavorando, e diventa don, cioè il nobile, quando è in mezzo alla sua vecchia famiglia, ai più umili, più poveri, no? Quindi in base all'ambiente lui è o mastro e don, un po' come l'elettrone che può essere onda o particella, insomma, no? Queste cose, queste identità indefinite, la letteratura proprio in quegli anni ci lavora sopra, no? Anche uno, nessuno, centomila, no? di Pirandello, anche lì, no? Questa identità plurale che dipende dal punto di vista. Ecco, beh, poi anche le altre parole, insomma, si potrebbe commentare. Ecco, mi fermo qua, non so se avete domande o commenti da fare. Ecco. Sì. Sì. Quando è che io invece vedo solo le due, cioè qual è il meccanismo? Cioè osservo o non osservo? Non mi sfugge questo. Sì, se io metto un rivelatore di particelle, il rivelatore di particelle funziona così. E sostanzialmente c'è un dispositivo elettronico che quando arriva dell'energia emette un lampo, una cosa del genere. Se io sullo schermo metto una cosa di questo tipo, che è fatto proprio per misurare la presenza di una particella, vedo questi lampi, non vedo più l'onda, vedo dei lampi localizzati. Quindi vedo... Quando è che vedo le strisce? Cioè le vedo o non le vedo? Solo per capire. Se io questo rivelatore di particelle non lo metto, lascio solo quelle due fenditure nel primo schermo, quello è una strumentazione che tipicamente mi fa vedere un'onda, se l'onda c'è. Se l'onda non c'è, vedo solo due strisce. In questo caso, se io faccio passare non la luce ma elettroni, poi l'esperimento è stato fatto con atomi, addirittura con molecole, quindi cose anche più grosse, tutte danno diffrazione, cioè è come se passassero anche con singoli atomi, uno alla volta. Io mando un singolo atomo e scopro che passa sia da una parte che dall'altra. Quindi anche qui non è più localizzato, è in due punti contemporaneamente. Ma anche quello è un misurato, se lo vedo. Sì, però con un'apparecchiatura che mette in luce la natura ondulatoria. Se io uso un'altra apparecchiatura che mette in luce la natura corpuscolare, trovo il corpuscolo. E ho bisogno di tutte e due le descrizioni. Qua nasce quello che si chiama il principio di complementarità, no? Dovuto a Bohr, dove dice io ho bisogno di tutte e due descrizioni, ma con una arrivo fino a un certo punto, con l'altra arrivo fino a un certo punto, ma quando uso una non posso vedere l'altra e viceversa. Non c'è anche un discorso di... Cioè quella fenditura non è una fenditura qualunque, deve essere di dimensioni paragonabili alla lunghezza d'onda. L'onda, altrimenti questo... Esattamente, deve essere sottilissima, stiamo parlando di nanometri, quindi sono delle incisioni fatte, no, su dei materiali. Oppure, ad esempio, nel caso appunto degli elettroni, si tratta di usare proprio dei cristalli, quindi la fenditura è lo spazio che c'è tra un atomo e l'altro in un cristallo. No? Questo. E se volessimo farlo per una massa di un corpo macroscopico, questa fenditura dovrebbe essere di una dimensione che non riusciamo a fare, cioè, non so, 10 alla meno 20 metri. No, diciamo. Ci passerebbe come onda, cioè questa sarebbe la cosa, no? Cioè più è massiccio e più stretta bisogna farla la fenditura. Sì. Ho letto recentemente il libro di Carlo Rovelli dell'uguaglianza di tutte le cose. Perché era la seconda, no, perché è la seconda volta. Volevo chiedere, non riesce a fare questo esempio? Onda che ho, può essere. Adesso io il libro di Rovelli non l'ho letto, lo apprezzo molto, ho letto altre cose, ma in realtà questa cosa delle finiture è una cosa che si trova da tantissime parti, insomma, forse lui non vuole essere banale, non lo so, pensa che è una cosa già detta e prova a dire qualcos'altro che giustamente, però... Sì, sì, però questa cosa proprio delle fenditure non... Capito? grazie. Libri che sì. Ha esposto tra Rovelli e gli altri, sì. Che non c'è il fisico Michio Kaku, che ha lavorato anche con Einstein e è come lei, riesce a trasmettere le nozioni di fisica quantistica in modo anche per chi non ci capisce niente come me. C'è una ragione? No, allora, questi non li ho messi là io, le ho risposte alla biblioteca. No, volevo sapere se pensava che non fosse... No, lui appunto Kaku ha scritto dei bei libri, sì, insomma, sì. Sì. Sì. È comprensibile come lei per chi non ci capisce niente. Sì, è chiaro che... È difficile, no? La divulgazione, cioè, significa da una parte avvicinare, dall'altra però anche introdurre delle imprecisioni, insomma, no? più o meno gravi, insomma, questo è il limite della divulgazione, insomma, per cui bisogna prendere le cose con, sapendo che sono approssimate, perché la meccanica quantistica è una teoria matematica, prima di tutto bellissima, però richiede appunto... cioè uno studio matematico insomma, preventivo, approfondito, insomma, però matematicamente sembra quasi, quando uno lo studia, vedere come tutte le cose sono collegate tra di loro, come tutto viene ricreato naturalmente dalla matematica, veramente sembra di entrare quasi in un posto sacro, insomma, no? Io ho conosciuto qualche fisico che ti dice, magari ateo, che però ti dice... Quando io faccio questi conti qua e mi rendo conto del grado di verità a cui arrivo, per me è quasi come, mi sento come aver pregato. No? Cioè, questo, ecco, sì, beh, poi insomma, le case editrici spesso sono loro che fanno questi titoli. Ecco, la mia casa editrice, sono contento, perché questa casa editrice, la Dedalo, è molto, molto nota. Di Bari, nella divulgazione scientifica, diciamo, credo sia stata una delle prime in Italia, già 50 anni che fa libri di divulgazione, quindi insomma, per me è stata una soddisfazione. Solo se posso ancora, non ho molte occasioni per... cioè il fatto dell'onda, no? Il fatto del noi comprendiamo le onde di cose fisiche, suono, io ci metterei anche l'acqua, ci metterei la ola dello stadio, no? Noi capiamo benissimo, sì, che esiste, è come se esiste, no? Esiste per me. Ma dire che esiste un'onda senza necessità di materia, come dire, scusi la mia ignoranza, non è come dire girare un po' attorno al problema, dire non lo sappiamo, è un'onda di... perché la usiamo benissimo, megahertz qua nel cellulare, infinite qua in questa stanza, ma noi non sappiamo. E anche lì è una cosa che all'epoca, fine 800, è stata molto dibattuta, cioè hanno fatto di tutto per dimostrare che c'era una materia che fungeva da supporto, no? Questa cosa che chiamavano etere. Michelson, che ha preso il premio Nobel per queste misure che ha fatto, lui ha fatto le misure con l'intenzione di mettere in evidenza la presenza dell'etere. Cioè lui ha elaborato, è andato avanti per 15 anni a ripetere queste misure, perché la sua intenzione era: voglio far vedere che c'è l'etere, no? E invece, ecco, esempio anche questo molto formativo, lo scienziato, di fronte al risultato dell'esperimento fatto, ripetuto, cambia idea. Dice, no, cioè, gli esperimenti mi dicono che la mia ipotesi è sbagliata, quindi è inutile che mi incaponisco. No? L'etere non c'è. No? D'altra parte il campo elettrico c'è, cioè ci sono gli strumenti che lo misurano, il nostro cellulare, dico c'è campo, non c'è campo. Qualcosa c'è, però le dico, in realtà ci sono anche... Come in tutte le fedi, diciamo, ci sono anche in fisica alcune persone che magari non ben viste nell'ambiente, no? Secondo me anche scorrettamente da questo punto di vista, che invece ancora esplorano quella possibilità, perché dicono no, cioè una cosa per essere naturale deve essere materiale. Insomma, ci sono alcuni eretici, diciamo, no? Che ancora dicono Einstein ha sbagliato... sono abbastanza appunto come delle sette, diciamo, no? Cosa che è un po' una contraddizione nella scienza, perché lì, cioè, comanda l'esperimento, il risultato sperimentale. Però dall'altra parte è giusto anche che ci siano le persone che liberamente esplorino altre alternative. All'epoca, gli scienziati nati dopo hanno imparato che esiste il campo elettrico che oscilla, e quelli sono nati così, e per loro, cioè per noi, è normale che sia così. No? Planck stesso diceva, come si fa a superare queste indecisioni? Spesso semplicemente si superano così. Muore una generazione, gli altri nascono, dalla nascita gli vengono insegnate certi concetti e per loro sono quelli, sono quasi dei dogmi, no? Invece per quello che si è trovato a vedere che la luce prima era considerata particella, poi diventa un'onda, allora dice ok, ditemi cos'è che oscilla. Sì, sì, certo. Tutte le onde elettromagnetiche possono essere quantizzate, essere viste come discrete nello spazio invece che continue, certo. Come dicevo prima, professore, in questo concetto particella onda di un fotone viaggia alla velocità della luce. Particella, come lo si mette d'accordo con l'equazione di Einstein? È uguale a mc. No, questo, allora, questi sono problemi che in realtà sono risolti, adesso sarebbe un po' tecnico da spiegare, però perché è. Perché è una particella di massa zero, però. Perché non è una particella... è una particella nel senso che non è distribuita nello spazio la sua energia, ma è concentrata. Quindi non arriva un po' qui e un po' qui, ma arriva o tutta qui o tutta qui. Questa è l'idea di quanto di luce, o quindi di corpuscolo. Però viaggia alla velocità della luce proprio perché è a massa zero, se no non potrebbe. Ecco. Ci vediamo qui? Raffaele. Ecco, dicevo prima Raffaele, uno dice io non capisco. In realtà, proprio sulla meccanica quantistica, uno dei più grandi fisici del Novecento, Feynman, dice chiunque dica di capire la meccanica quantistica vuol dire che non l'ha capita. Quindi... Infatti, no, io mi ha colpito quando hai detto di quella disputa tra Bohr e Einstein e il fatto che questi esperimenti più recenti sembrerebbero dare ragione a Bohr. Sì. Non so come stanno adesso le cose, anche secondo tuo punto di vista personale, vorrebbe dire allora che Einstein, che Dio gioca dadi? Sì. Ecco, volevo questo, sapere qualcosa, esatto, di più su questo. La conclusione, grazie, è questa, che a livello microscopico, perché poi appunto l'errore che a volte si fa, ci si fa prendere un po' la mano e dice allora è tutto così, no, c'è una scala dimensionale che fa diventare l'indeterminato determinato, la causale, no, e il non locale locale, cioè man mano si è proprio esplorato questo continuum, no, a un certo punto le cose... Man mano che crescono le dimensioni del sistema che studio, emerge la fisica classica. C'è una continuità, no? Quindi a livello microscopico, che poi si dice microscopico, ma più in giù del microscopico, gli esperimenti, su cui sono anche conferiti già dei premi Nobel, quindi dico queste persone che avevano la mentalità di Einstein, cioè far vedere che in realtà le cose sono classiche, che quei pilastri lì funzionano ancora, no? E invece hanno dovuto, si sono smentite da sé, insomma, no? Che a livello microscopico è così, cioè questa, la natura è indeterminata. Sì. Sì, questo è anche vero. Sì, sì, sì, già da recentemente, già. Sempre nella meccanica, questa è sempre una cosa che emerge nella meccanica quantistica, che questa indeterminazione, di cui non ho parlato, proprio del principio di indeterminazione, per cui non si può determinare una certa variabile con estrema precisione contemporaneamente ad un'altra, insomma un po'. Però sì, anche per l'energia è così, per cui si vede che anche l'energia fluttua, cioè mentre se io devo, nel mondo classico, devo lanciare la palla oltre alla rete, no? Oltre al muro, e poi devo calcolare la velocità che deve avere perché arrivi lassù, no? Quindi gli devo dare una certa energia, se no non va oltre il muro. Ridotto tutto questo al microscopico, la particella riesce ad andare oltre al muro anche se quell'energia non ce l'ha. Cioè, questo, no? E quindi quello che in realtà succede è che scompare di qua e riappare di là, il vuoto che era di là si riempie di questa particella. Fluttuazione quantistica, perché c'è un'onda, la particella non è la particella ma è descritta da un'onda che ha una piccola probabilità anche diversa da zero che è dall'altra parte del muro, no? A meno che il muro non sia infinito ma sia finito, c'è una piccola possibilità che ci sia la particella dall'altra parte del muro. E quindi quando io ho miliardi di elettroni il 99,99% non passa, ma uno sì. E su queste cose ci sono dei transistor che funzionano con questo effetto tunnel, si chiama. Quindi la meccanica quantistica magari, cioè, non la capiamo, però la cosa incredibile è che prima di capirla riusciamo noi come specie, no, esseri umani, ad utilizzarla. Non so perché, ma intanto la uso. Così, ecco quel giro di miliardi che avete visto, insomma. Grazie allora per essere venuti.